This Is Not an Exit. Digressioni musicali dalla fine del secolo breve. We'll be right back. buona serata e benvenuti a tutti. Questa è This Is Not An Exit in versione raffreddore, o quantomeno per quanto mi riguarda. Ma no, l'estate sta arrivando, babe! E infatti facciamo una trasmissione bella solare. Questa sera siamo in compagnia, oltre che del dottor Scarpa, del dottor Corrias e del dottor Cortesi, anche di Mick Harris e dei suoi amici con il progetto SCORN. Mick Harris, per chi non lo conoscesse, batterista, ex batterista dei Napalm Death. Nel 1987 esce il primo disco Scam dei Napalm Death, disco molto importante per la storia della musica rock. Mick Harris, la prima formazione dura pochissimo. Mick Harris rimane con i Napalm Death per altri 3-4 anni e poi li lascia per poi riformare praticamente la prima formazione dei Napalm Death con un nuovo nome, Scorn, ma facendo qualcosa di completamente diverso, dico bene? Esattamente, questa è precisamente la formazione che suonò sul lato A di Scam, cioè Nicholas Bullen in Scam suonava basso e cantava, Mick Harris alla batteria e Justin Broderick, che poi andrà a formare i Godflesh, alla chitarra. Qui si riformano, l'assetto è completamente differente e è la prima fase del progetto Scorn. Faranno questo disco intitolato Vae Solis, che sarà praticamente il primo tassello di un percorso che si evolverà già dal disco successivo, Colossus. Il pezzo che andremo ad ascoltare proviene proprio dal secondo disco Colossus, qualcosa di completamente diverso, come dicevano i Monty Python, ma in un modo molto tetro, e insomma sarete a sentire. Matteo, una cosa, allora io appena si formarono gli Scorn e quindi comunque tutto il discorso dub e via andare, ovviamente abbastanza contrariato dalla fuoriuscita o volontaria o meno dai Napalm Death, mi sento questo disco qua. E ti dico la verità, poi li ho apprezzati dopo parecchi anni. Mi faceva veramente schifo. A te che effetto ti ha fatto agli inizi? No, non potete vedere, gentili ascoltatori, ma l'effetto è stato opposto, direi. Yeah. Beh, puntatona piena di humor inglese questa sera, l'avete ascoltato. Speriamo proprio di mettervi un po' di buon umore per farvi passare il freddo. Mettiamola così. Beh, questa è l'atmosfera giusta, direi. Direi sì, anch'io. Già che ci siamo, ricordiamo anche i nostri numeri. Se volete mandarci un SMS, un messaggio su WhatsApp, 348-7649-289, 348-7649-289. Dicevamo che a qualcuno era rimasto orfano dei Napalm Death, o comunque si era molto dispiaciuto che Mick Harris se ne fosse andato dai Napalm Death. Peraltro invece il fatto che i Napalm Death avevano altri invece, critici presi su vecchie riviste, riscoperti, paragonavano i Napalm Death ai Sex Pistols e gli Scorn ai Public Image Limited. Ed effettivamente... Esattamente, è proprio quello che si legge in una vecchia recensione del disco di cui stiamo parlando ora e che stiamo ascoltando. Colossus viene definito letteralmente un'amalgama inquietante di elettroniche viscerali, sfinimenti dubcore, campionamenti finemente macinati, voci e cacofonie fluttuanti, opprimente chitarre post-metalliche, il tutto sostenuto da una batteria decisa e corposa e da un morboso pulsare di basso, come lo potrebbe suonare un sergente dei Marines ubriaco, Statha Schwarzenegger e fanatico dei Public Image. Questa era una recensione del 1993 e non ci va poi tanto lontano rispetto alla cosa vera. È una specie di dub bianco e molto strano, molto malsano. E come si evolverà poi nei dischi successivi, siamo dalle parti di quello che poi verrà chiamato il genere ilbient, cioè letteralmente proprio ambient malsano, ambient malato. Era una questione proprio... viscerale da una parte e eterea dall'altra, un suono che si sfaldava e testi veramente molto strani e ai controlli Bill Laswell, che di questo suono è stato un pioniere, insomma ha messo le mani in pasta un po' come Adrian Sherwood fece per il dub pochi anni prima. Quindi Matteo, mi sembra che il gruppo ti piaceva davvero tanto, insomma, rispetto magari a Nicola, e per te è stata proprio una novità, no? Perché comunque se il punk dei Sex Pistols poi è diventato post-punk con i Pill, diciamo che il grindo dei Napalm Death poi è diventato posto grindo con, sì, sì, con i Scorn, quindi comunque sì sì è diventato proprio un'altra cosa. E quindi sì, certamente all'inizio c'è stato spaesamento perché comunque i Napalm Death facevano pezzi molto corti e molto dritti, e questo è l'esatto opposto, pezzi lunghi, dilatati e strani. Però è stata la cosa bella per me, se non avessi ascoltato, io poi ci sono arrivato con un disco che ascolteremo più tardi che si chiama Ellipsis, che è una raccolta di remix, e quello mi fece aprire un mondo completamente distante da quello che ero abituato ad ascoltare, cioè Napalm Death eccetera. Questa è stata una progressione assolutamente coerente e sensata rispetto al percorso di Napalm Death fino ad allora. Oh, 21:36 minuti primi, questa è This Is Not An Exit, se siete su Radio Città del Capo, non so se l'ho ricordato, quindi 94.7 o 96.250 in diretta dagli studi di Bologna, in compagnia degli Scorn, un gruppo che secondo me pochissimi all'ascolto avranno riconosciuto, pochissimi li ascoltavano forse negli anni 90, anzi se avete testimonianze e li avete visti, scriveteci, il numero lo ha detto, lo ripeto, 348-7649-289. Il pezzo che abbiamo appena ascoltato si intitola Night Sash Black, è il pezzo che poi riprenderà Bill Laswell, come abbiamo detto prima, per un remix di un quarto d'ora, della durata di un quarto d'ora, nel disco di remix Ellipsis di poco successivo. Il responsabile principale di queste pulsazioni di basso non fu ai tempi Mick Harris come molti credevano, ma il suo socio Nicholas Bullen, colui che suonò il basso e cantò nel lato A di Scam dei Napalm Death. Esatto, il vero genio, diciamo così, di questa fase degli Scorn era proprio lui, un genio diciamo molto sulle sue, nel senso non appariva, non si faceva vedere, era molto dedito a sviluppare il sound degli Scorn e purtroppo anche alla bottiglia, era un alcolista e finì anche in galera per questo motivo e poco dopo il disco che stiamo per ascoltare, che è Evanescence, venne allontanato dagli Scorn, lasciando l'intero gruppo in mano al solo Mick Harris. E l'unica testimonianza che per diversi anni sopravviverà di questo periodo sarà un disco realizzato a quattro mani assieme a Bill Laswell, intitolato Bass Terror, in cui ci sono due pezzi di un quarto d'ora ciascuno e basta ascoltarli per capire chi fosse il vero genio degli Scorn in quel periodo, un periodo che sta per finire. Il pezzo che stiamo per ascoltare appartiene all'ultimo periodo in cui gli Scorn hanno effettivamente un duo. 21:51 minuti primi su Radio Città del Capo, siete sempre state sempre ascoltando This Is Not An Exit, e questi sottofondo sono ancora gli Scorn con code lunghissime come Dub comanda, ma non sono giamaicani, direi. Decisamente, diciamo da tutt'altro emisfero, in tutte altre latitudini. E anche lo stato mentale era abbastanza diverso, perché comunque... Lo ricordiamo, diciamo, vengono da Birmingham. Sì, esatto. E Nick Bullen, quello di cui stavamo parlando prima, da pochi chilometri da Birmingham, comunque lo stato, il razzo d'azione era quello. E fabbriche, ciminiere, molto grigio, il tempo molto brutto, insomma... Gran palme da cocco. Sì, sì, sì, decisamente. Diciamo che una corrispondenza tra musica e stato mentale in questo caso non è, non so come dire, peregrina, tutt'altro. Però insomma la capitale dell'inglese del dub, Bristol, non era poi tanto lontana, quindi comunque magari qualche influenza arrivava anche a Birmingham. Ricordiamo che la città inglese, terza se non sbaglio come numero di popolazione, in quel periodo conosceva anche un processo molto famoso che fu fatto appunto a sei personaggi irlandesi che furono assolti proprio in quel periodo 92 dall'accusa di terrorismo. Ricordiamo che poi ci fu anche la canzone dei Pogues, Birmingham Six, che appunto raccontava di questa vicenda. Anni e anni di processo, alla fine insomma la città di Birmingham ebbe il modo di espiare una colpa, insomma, dell'Inghilterra tutta, accusare dalla gente solo perché irlandese di essere terrorista. Esatto, cosa che avrebbe dovuto fare con quelli che stiamo ascoltando in sottofondo in questo momento. Questa sera vi facciamo rilassare con il dub degli Scorn. Non state ascoltando Lee Scratch Perry o una delle innumerevoli produzioni che escono dalla Giamaica, ma qualcosa che, come dicevamo prima, esce dal centro, dal bel mezzo dell'Inghilterra, da Birmingham. Eppure il dub lo conoscevano, l'immigrazione giamaicana era stata fortissima, e non solo Bristol, anche se Bristol era il porto principale. E molti gruppi già dalla fine degli anni 70, i pop group, gli Specials e tanti altri, gli Clash stessi, cominciarono a contaminarsi, ma qua fu una cosa, come dire, più futurista, più progressiva. Alle cadenze dub c'era tutto un immaginario che con la Giamaica e con il reggae non aveva proprio nulla a cui spartire. Esattamente, più che altro diciamo limitato alla Gran Bretagna. Questo, il pezzo che abbiamo appena ascoltato, è il remix dei Meat Beat Manifesto di un pezzo degli Scorn, Silver Rain Fell. È il primo pezzo di un disco di remix che si chiama Ellipsis e contiene pezzi degli Scorn remixati, ma in questo caso, come in molti altri, resi completamente irriconoscibili da altri amici e compagni di strada degli Scorn. I Meat Beat Manifesto, come anche i Coil, come anche Bill Laswell, come abbiamo detto prima, Scanner e gli Autechre. Il pezzo che stiamo per andare ad ascoltare è un remix di un pezzo degli Scorn, ma sfido chiunque a riconoscere l'originale. Il disco da cui è tratto Ellipsis è praticamente lo strappo finale e forse l'ultimo disco veramente rilevante uscito a nome Scorn, che da lì in poi rimarranno ad appannaggio del solo Mick Harris, che ne renderà una creatura sempre più asfittica e anche autistica. Robe veramente molto difficili da sopportare dall'inizio alla fine, ma intanto ascoltiamoci questo pezzo qui. Thank you. Vi abbiamo rilassato? Non lo so. Comunque, di sicuro non vi seguo stato il computer né il ricevitore, bensì sono gli Hottech che da par loro scarnificavano alla metà degli anni 90 questo brano degli Scorn. Gli Hottech sono ancora in giro e simbolicamente possiamo prenderli come questo brano come un passaggio di consegne. Se tra il passaggio tra gli 80 e i 90 etichette come la Earache avevo innovato tantissimo con i Napalm Death, con i Godflesh e con gli Scorn appunto, poi un buon passaggio di testimone fu fatto, ben fatto da bravi scattisti sulla 4%, fatto con la Warp, che ricominciò a sperimentare o comunque a pubblicare dischi abbastanza sperimentali su tutt'altro versante. Però esattamente, la Earache tentò di restare al passo con i tempi. Gli anni erano 95-96 soprattutto, facendo uscire roba che potesse reggere l'impatto con una nuova generazione anche di suoni elettronici piuttosto che suonati con le chitarre. Pubblicò un sacco di roba ad essere buoni, prescindibile, no? E tra cui pubblicò anche gli ultimi dischi degli Scorn, che ricevettero una pessima promozione, insomma vendettero veramente molto poco e da lì poi ci fu la scissione. Mick Harris continuò a pubblicare roba per conto suo, però anche la Earache non aveva tutti i torti, perché il materiale che Mick Harris consegnò era abbastanza scadente, mettiamola così. Un pezzo lo stiamo per ascoltare, appartiene al periodo in cui ancora, diciamo, gli Scorn galleggiavano, anche se a livello di consensi, a livello di presenze, soprattutto durante i concerti, ci fu una diaspora veramente molto molto importante. Quando vennero a Roma, non ricordo se nel 96 o 97, forse 97, comunque ci furono 15 paganti, e da quella volta in poi gli Scorn non tornarono mai più. Thank you. questa sera sembra che abbiamo fatto quasi due trasmissioni in una. Siamo partiti con dell'industrial metal o qualcosa che veniva poco dopo la musica industriale, e poi siamo finiti con questo dub super etereo e magari anche un po' meno morboso delle prime cose uscite a nome Scorn. Esatto, e stiamo per lasciarvi con un pezzo che è praticamente la fine dell'intero processo, oltre il quale non rimane più nulla, forse solo il silenzio. Il disco si chiama Loggi Baroggi, l'ultimo disco che uscirà sotto Earache, dopo il quale il marchio Scorn continuerà a sopravvivere fino al 2011, facendo anche altre cose abbastanza notevoli, di fatto comunque avendo fondato proprio le radici di un genere che qualche anno dopo diventerà molto celebre, il dubstep. Mick Harris quei territori li frequentava già quei 10 anni prima, ma insomma il pezzo che stiamo per ascoltare chiude idealmente il cerchio, e da lì proprio il marchio si sfalderà come si è sfaldata la musica che hanno prodotto fino adesso. Questo dub che non sfigurerebbe in tante altre radio, magari giamaicane, appunto. Vi salutiamo, sono le 22:26 minuti primi. Buonanotte a tutti e buon proseguimento d'ascolto con Radio Città del Capo. Bella. Buonanotte, dottor Rias, buonanotte, dottor Scarpa. Buonanotte. E buonanotte, dottor Cortesi, buonanotte. Giovedì prossimo vedremo altra roba sotterranea o meno. gay. Pump up the volume.